YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buonasera, buonasera a tutti. L'abbiamo detto, una puntata buonasera. Speciale questa molto di Radio Tube, molto speciale. Tempo. Sì, era da tempo che volevi parlare sì. di cibo, di pappa, di mangiare. No, più che altro del perché in televisione, ma in realtà ormai nella vita politica, nella vita economica, si parla così tanto di cibo. Allora, intanto vabbè, ricordiamo i nostri account di Twitter, chiocciola Marta Cagnola, chiocciola di Bellasio, l'hashtag cancelletto Radio Tube, anche in questa puntata speciale, specialissima, dedicata a Radio appunto, Cook. Radio Cook, mi Radio piace, Cook. Radio non Cook, so, cambiamo. Un hashtag per l'occasione. Beh, io lo so che tu poi non vuoi più parlare di Expo perché stiamo parlando tanto di Expo, però insomma il tema di Expo è il sì, cibo e quindi sì, è un po' inevitabile nutrire il pianeta, è un po' inevitabile. Cosa sta succedendo tra le altre cose a Expo? Beh, c'è qualcosa che mette insieme un po' tutte le nostre passioni e tutto quello di cui noi ci occupiamo. La televisione, la rete, a questo punto anche il cibo, e tutto questo succede a Expo. Una nuova trasmissione, The Cooking Show, ecco come è stata presentata dalla conduttrice Lisa Casali. Eccola. Show, il mondo in un piatto, è un format televisivo ma è anche uno show live. E cosa succede a The Cooking Show? Tutti i giorni avrò il piacere di avere due grandi ospiti, due chef, un italiano e uno straniero, che realizzeranno due piatti ispirati al grande tema di Expo Milano 2015, che è nutrire il pianeta, energia per la vita. Insieme cucineremo, parleremo di sostenibilità, di lotta allo spreco, ma anche di piccole gioie legate al piacere di cucinare, perché si diventa chef, li conosceremo anche come persone, oltre che come grandi cuochi. E poi al termine assaggeremo i loro piatti e avremo un ospite esterno, che potrà essere un ambassador di Expo o un personaggio che ha qualcosa di interessante da raccontarci, con cui assaggeremo insieme i due piatti. E alla fine avrete una sorpresa, gli ultimi minuti li prenderò per me, per realizzare un piatto con tutto quello che è rimasto sul tavolo, perché voglio vantarmi che questo è il primo programma di cucina che veramente non spreca nulla. Beh, e noi ce l'abbiamo Lisa Bello. Casali, ce l'abbiamo al telefono. Buonasera Lisa. Buonasera. E questa era la tua presentazione ufficiale di The Cooking Show, che andrà in onda, beh non subito, manca ancora qualche giorno. The Cooking Show, il mondo in un piatto, su Rai 3 a partire dal 1 giugno. Rai 3, e beh, non è male questa scelta, no, perché certo. non è uno di quei canali che abitualmente abbondano così in cucina. Lisa, com'è nata questa idea? Intanto ti chiedo, perché ci sono degli spunti molto tuoi e poi dirò perché. Lisa, com'è nata questo incontro e questa avventura di The Cooking Show? Beh, sicuramente nasce dalla volontà di Expo di avere anche un'attrazione parlante, quindi diciamo non solo tra le attrazioni, quelle proprio fisse di Expo, che come la parata di foodie, l'albero della vita, c'è anche The Cooking Show, che appunto ha in più il beneficio di ogni giorno comunque avere qualche piccola differenza, perché noi abbiamo ogni giorno ospiti diversi, e soprattutto poter raccontare, quindi non è magari il classico convegno a cui si va un po' malvolentieri quando uno va in Expo ed è tutto bellissimo, spettacolare, mentre questo comunque un po' combina la parte anche di entertainment con anche il divertimento legato al cibo. Penso per esempio a chi non è mai stato in uno studio televisivo, poter essere quindi in uno studio della Rai, tra l'altro uno dei più belli che personalmente abbia mai visto, dove però c'è divertimento ma allo stesso tempo anche cultura, perché sicuramente se hanno scelto me è perché non cercavano una conduttrice bravissima ma magari con poche competenze in campo ambientale, mentre sicuramente è il mio pane quotidiano. Quindi l'idea nasce da Expo ma dall'altra parte anche da Rai, che vuole arricchire proprio palinsesto con un programma pensato ad hoc proprio per in occasione quindi di Expo Milano 2015, e quindi un po' da questo incrocio per un'idea di Andrea Boin e Raffaele Bruscello, che sono gli altri due autori insieme a me, è nato un po' questo bellissimo format. Allora, Lisa, visto che abbiamo citato anche con un po' di stupore Rai 3, sentiamo cosa ha dichiarato il direttore di Rai 3, Andrea Vianello. Un'occasione troppo ghiotta per riunire l'idea anche straordinariamente culturale di questo luogo dell'eccellenza, della biodiversità, dei temi dell'alimentazione, ma anche dell'eccellenza. Ci sono straordinari cuochi ambassador e quindi abbiamo pensato di mettere su uno show che peraltro andrà in scena anche quando non andrà in onda, nel senso che da oggi fino alla fine di Expo tutti i giorni ci sarà Lisa Casali con due grandi cuochi che si confronteranno senza gara, non c'è gara ma c'è fusione. Cioè l'unione di due culture, il confronto e il dialogo, che penso che sia un po' il senso di Expo e che penso che renda la presenza della cucina, che è un genere televisivo in questo momento veramente molto forte, anche armonica con la nostra rete, con Rai 3. Beh, Lisa, è interessante il fatto che non ci sia la gara, perché ormai sembra che in TV tutto sia gara quando si parla di cucina. Sì, l'unico momento di gara l'hanno riservato a me, quindi trattamento sicuramente di favore. Appunto perché dopo che i due chef hanno avuto più di mezz'ora di tempo per cucinare, parlarsi, confrontarsi, io sicuramente che faccio un po' da trade union, quindi per chiacchierare, per fare da elegante, poi però gli ultimi 5 minuti con il cronometro sono io, quindi che ho pochi minuti per azzerare gli sprechi e usare tutto quello che è rimasto sul tavolo, quindi un minimo di gara c'è, ma l'hanno riservata solo a me. Lisa, tra poco ti voglio chiedere qualcosa delle tue competenze scientifiche ed ecologiche. Solo una brevissima pausa e poi saremo ancora con te, con Lisa Casali, per parlare di cucina, per parlare di TV, per parlare di tante cose. A tra pochissimo. YouTube. Rieccoci insieme con questa puntata speciale di Radio Tube, Radio Cook, ha già detto Daniele Bellasio. Dedicata al cibo e alla cucina in TV. Abbiamo in linea ancora Lisa Casali, che sta per esordire il 1 giugno su Rai 3 con una trasmissione che andrà negli studi di Expo della Rai, e quindi è proprio inserita nel contesto di Expo, che parla di cucina, che fa sfidare amichevolmente, perché non c'è una gara, due cuochi con, a quanto ho capito, due tradizioni diverse. Però a un certo punto, Lisa, per te ci sarà una sfida, che è quella di cucinare con gli avanzi, perché tu sei una scienziata ambientale, oltre che blogger e scrittrice, e l'hashtag che ti contraddistingue è Ecocucina. Sì, assolutamente. Beh, diciamo che è un po' sotto gli occhi di tutti lo spiego che si fa. E tanti insomma, che seguono anche i programmi di cucina si lamentano del fatto che in televisione si veda sprecare tanto. Diciamo che in televisione a volte si spreca anche perché non si può utilizzare quello che si è cucinato, ma secondo me è comunque importante mostrare anche attraverso lo schermo alla persona a casa che ci seguono tecniche per ridurre lo spreco quotidianamente, quindi è quello un po' che è la sfida che mi sono data da ormai 10 anni, quasi la mia missione nel mondo. Quando così una sera per caso pulendo dei carciofi ho visto un grande potenziale in questo ingrediente che solitamente viene buttato via, e ho deciso di fondere appunto quelle che erano le mie competenze scientifiche, io tuttora lavoro come esperta di rischi ambientali, con quella che era sempre stata la mia passione, ovvero il cibo. E qualcosa che sicuramente era molto di nicchia quando ho cominciato a farlo 10 anni fa, adesso sicuramente mi regala un po' più soddisfazioni, si parla molto più di spreco, anche le abitudini degli italiani sono sicuramente migliorate, ma credo che ci sia ancora molto di più di cose che si possono imparare, che si possono fare. In realtà bisognerebbe proprio un po' reinventare il modo in cui lavoriamo ogni singolo giorno, la frutta, gli ortaggi. Diciamo che c'è un tale bagaglio culturale in Italia che insomma prima che entrino in voga le nuove tecniche ci vorrà un pochino di tempo, e io di sicuro ce la metto tutte. Questa cosa un po' della piccola sfida con me stessa, poi alla fine è una mia sfida contro il tempo, per dimostrare che non servono ore e ore per imparare a ridurre gli sprechi, perché una delle motivazioni che vengono portate più spesso avanti da tante persone è che non si ha abbastanza tempo per cucinare, che non si ha abbastanza tempo per, ad esempio, per non sprecare. E quindi questa cosa è un po' un gioco anche così per scherzare su questa mia particolare competenza, ma anche per mostrare che non servono ore in cucina per mettere in tavola una cena sana, buona e sostenibile. Tu lavori tanto con la rete, con il tuo blog, sei molto presente su Twitter, il tuo account è @liscalisca, mi piace molto. E io mi sono divertita a guardare un sacco di video, perché poi noi a RadioTube mostriamo i video alla radio. Anche di cucina? Anche di cucina. Ce n'è uno che mi è piaciuto tantissimo, ne faccio sentire un pezzettino, anzi ne mostro un pezzettino a Daniele e ai nostri ascoltatori, perché io questa davvero non me l'aspettavo. Oggi sperimentiamo un nuovo modo per cuocere il pesce. Prepareremo del tonno alla lunga. Il tonno alla lunga intanto è un'alternativa sostenibile al tonno rosso. È un pesce che al momento non è sovrasfruttato e ha delle carni tenerissime, senza particolari lische, e che può essere cotto in maniera analoga a quella del tonno. Cuocendolo in lavastoviglie si possono ottenere dei risultati veramente eccellenti. E noi oggi useremo il lavaggio rapido, quello che dura solo 30 minuti e cuoce intorno ai 60 gradi. Cuocendolo in lavastoviglie, ma davvero Lisa? No, ma io sono rimasta, ma non a bocca aperta. Io non ce l'ho più. La lavastoviglie. No, ma io ce l'ho e non la uso perché. Questo è un problema tecnico. Sì, quello. Io non la uso perché dico spreca troppa energia, perché poi lavo pochi piatti, allora mi dispiace sprecare. Però a questo punto io potrei. Ma è straordinario, Lisa. Beh, senza dubbio dobbiamo, prima di tutto, si carica bene la lavastoviglie a pieno carico. Mm-hmm. E quando la si fa andare per lavare i piatti, si ottimizza il consumo di energia anche per cuocere. Ovviamente lo dobbiamo fare sigillando bene gli alimenti, ecco, in vasetti ermetici, come quelli delle conserve, anche riciclati, o sacchetti per il sottovuoto. Usando uno di questi due tipi di contenitori non solo non ci sono i rischi, ma ci sono tutti i benefici della bassa temperatura, che è veramente una tecnica straordinaria, probabilmente il modo più salutare che esista per cuocere i prodotti animali. Quindi tranne l'opzione di mangiarli crudi, se li vogliamo cuocere, farli a bassa temperatura è il modo per avere le carni più tenere, più saporite, per non perdere tutti i succhi che invece evaporano, perdiamo con le cotture tradizionali. Ma fantastico. Hai capito? Cioè io mi sono persa a guardare i video di Lisa, perché cioè quando ho scoperto cotture e lavastoviglie, due o tre scienziata, poi appunto la rete. Sono curiosa di sapere cosa ne pensi di questi, visto che tu poi sei in rete da tanti anni, questo boom dei tutorial di qualsiasi tipo, ma in particolare di cucina. Sì, tutorial, così come anche il bombardamento naturalmente televisivo, libri, blog. Diciamo che finché sono cose che hanno un senso, e per me, perché una cosa abbia senso, vuol dire che è una cosa comunque che in qualche modo educa, e quindi qualcosa che comunque faccia bene, che possa far risparmiare o che possa comunque avere dei benefici ambientali, mi va bene tutto, e sono anche contenta che ci sia un piccolo bombardamento che fino a poco tempo fa non c'era. Quando invece la cosa va assolutamente nella direzione opposta, naturalmente non mi fa così contenta, perché in realtà penso che in questo momento ci sia veramente bisogno di invece investire per educare le persone. Stiamo cucinando troppo poco, ormai la cucina la viviamo sui social, nei libri, in televisione, la guardiamo ma non la facciamo, cuciniamo pochissimo. Una delle mie più grandi paure è che spariscano le cucine dalle case, che le persone non abbiano più bisogno di avere la cucina e che diventi una stanza in più. È un bel paradosso, ma è un bel paradosso. Ci renderebbe più ricchi, magari avremmo bisogno, potremmo avere case più grandi, quindi, perché la cucina non serve più, però questa cosa avrebbe inevitabilmente un effetto estremamente negativo sulla nostra salute e penso anche sul nostro pianeta. Allora, io ho chiesto un po' di opinioni anche ad alcuni ad alcuni personaggi famosi della televisione, come Antonella Clerici, come Bruno Barbieri. In particolare ad Antonella Clerici io ho chiesto come si è trovata a interagire, ad esempio, con le persone che hanno cominciato a scriverle sui social, perché anche lei ha cominciato tanti anni fa, lei dalla TV, non dalla cucina, e poi come conduttrice, non come sicuramente come cuoco, ma anche lei ha incontrato la rete. Ecco che sensazione le ha dato interagire con gli italiani, perché le scrivono tantissimo per una ragione molto semplice. Perché la gente è brava, soprattutto gli italiani sono appassionati di cucina. Infatti io ti devo dire che Twitter è diventato un po' il mio rifugio, dove intanto io prendo, ho preso ad esempio nel mio ultimo libro moltissime ricette che mi hanno mandato i fan di Twitter, naturalmente chiedendo loro l'autorizzazione e il permesso, perché ritenevo giusto, siccome in fondo la cucina è una cosa che proprio fa parte degli italiani, che un po', così come un po' la prova del cuoco, che gli italiani facessero un po' parte del mio libro, no? La cucina di Casa Clerici, che è appena uscito, e che riguarda proprio, insomma, le ricette facili che mi hanno regalato anche i fan, perché la maggioranza della gente in Italia sa cucinare bene. Non è vero che non sa cucinare, un po' per tradizione di nonna, famiglia, mamma, eccetera, un po' per passione, soprattutto centro-sud Italia, troviamo delle ragazze che hanno grande passione per la cucina e anche tanti ragazzi, gli universitari ad esempio che vivono da soli, dopo un po' devono fare di necessità virtù, quindi non è che possono sempre andare al ristorante e si impegnano. Allora, lei dice che gli italiani sono bravi. Io effettivamente vedo che lei retweeta molta gente che le, No. Non è mai venuta a cena a casa tua. No, perché io cucino senza metterci niente per non ingrassare. Sì, vabbè, tu che sensazione hai invece dalla tua interazione sui social network, Lisa? Beh, allora, io naturalmente ho il pubblico che mi segue, soprattutto sui social. È in buona parte anche il pubblico che mi segue sul mio blog Ecocucina su Didi Repubblica, però credo quindi che sia un pubblico sì che interagisce, che si manda la ricetta, però continuo ad avere un po' questa convinzione, che è quello che vi dicevo, che in realtà sia una nicchia e che invece ci sia questo trend in atto di allontanamento dalle tradizioni italiane. Ci stiamo molto americanizzando. E non è un caso il fatto che escano libri sulla dieta mediterranea come per rinfrescarci la memoria, perché in realtà il tipo di alimentazione che stiamo avendo, il modo con cui componiamo i piatti, è in realtà secondo me un po' lontano. Mangiamo magari la pasta, ma abbiamo quasi smesso di mangiare cereali integrali. I legumi sono scomparsi dai ristoranti e praticamente anche dalle tavole delle persone, quindi a meno che non intervistare una persona magari non giovanissima, i giovani i legumi non li cucinano più, quando invece dovrebbero essere cereali, legumi insieme alla frutta e alla verdura la base della nostra alimentazione. Quello che io vedo cucinare più spesso, soprattutto dalle giovani famiglie, sono o prodotti pronti o comunque il petto di pollo che in un minuto è pronto in padella, con al massimo un'insalata di busta già lavata. Per me questo non è proprio cucinare, è magari caldare qualcosa. Penso che per comporre un piatto e mangiare in modo sano ci voglia qualcosa di più, e quindi per esempio io auspico, vorrei tanto, e punzecchio tutti gli chef anche perché riportino i legumi sulla tavola degli italiani. Sono contenta, sì, io sono abbastanza favorevole ai legumi, qualcosa so cucinare, non sono proprio bravissima, vabbè Lisa, mi impegno. Lisa, allora l'appuntamento con te è dal 1 giugno su Rai 3, 12.45, The Cooking Show. Io sono molto Però ricordare a chi ci ascolta che in realtà il Cooking Show è un live da Expo tutti i giorni ed è anche un programma televisivo, per cui chiunque in Expo da oggi, domani, dopodomani, se vengono entro le 15.30 possono venire ad assistere allo show, quindi davanti ai loro occhi, e vedere che non sprechiamo via niente, conoscere di persona anche i più grandi chef del mondo. Bravissima, brava Lisa Casali, chiocciola Lisca Lisca, perché qualcuno ti vuole seguire su Twitter, così ti trova subito. Certo. Grazie, a presto. A presto. Expo. Ciao, grazie Lisa, a voi, presto, ciao, grazie. Ciao. Noi ci risentiamo pausa, tra poco, sì, una piccola, ho mangiato troppo, sì, ho mangiato legumi, troppi, dai, ci sentiamo tra pochissimo. Lasciali fare che stanno volando. Vuoi partecipare al nuovo tour di Enrico Ruggeri? Ascolta Radio 24 e potrai assistere al concerto nella tua città. Sarà domani, oppure mai. Pezzi di Vita Tour, dal 18 aprile, nelle più importanti città italiane. Info su radio24.it. Radio Tube. Torniamo con questa puntata speciale dedicata al cibo, alla cibo, TV, perché? Po' che Daniele Bellasio mi dice, sì, ma dobbiamo parlare di cibo, di sì, programmi televisivi dedicati al cibo. Mi sono fatto delle ipotesi. Perché hai delle teorie in merito? Sai delle mie teorie pippose? Sì, perché ogni tanto fa tutte le cose teoriche. C'è la versione economica. Sì. Sì. Siccome non siamo più tanto ottimisti sul nostro sistema paese, ci aggrappiamo con molte speranze a una cosa che siamo convinti di fare di benissimo, saper fare bene. E che in tutto il mondo ci mostra in tutto il nostro splendore. Mi piace, cucinare. Mi piace questa cosa economica. Però ho chiesto anche un po' in giro, c'è chi mi ha detto che invece no, il successo della cucina in televisione è dovuto al fatto che i cibi sono fotogenici, o meglio videogenici, perché sono colorati. Sì, sì, sì. Poi tu sai che esiste per me lo sono fatto addirittura mandare per iscritto da una collega, poi dopo ti dico anche chi. Esiste addirittura il food porn, tu lo sapevi? Ma certo, hashtag food porn. Ma cioè praticamente sono dei siti dove metti delle foto e poi stanno nascendo, come sempre sulla rete, la stessa collega me l'ha detto, stanno nascendo quelli che prendono in giro i feticisti del food porn, per cui fanno le foto a chi fa le foto dei piatti. Io sono iscritta su Facebook a un gruppo che si chiama Cucinare Male. No, ecco, no, questo si chiama, aspetta, picture. Allora, foto di hipster che fanno foto a cibi. Ah, cioè, è una cosa incredibile. Fantastico, no, perché esiste questa cosa? Io proporrei questo interrogativo a un'esperta, perché lei insegna alla IUM, al momento insegna storia dei programmi d'arte, ma è anche un'espertissima di storia dei programmi di a parte cucina che è alla un'arte. Televisione. Ah, certo, è un'arte anche questa. Lei ha scritto con Niccolò Gallio lo spettacolo del cibo, i cooking show nella televisione italiana, quindi sa tutto della storia della cucina nella televisione italiana. Buonasera Marta Martina, buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, ciao. Non so se hai sentito queste teorie di Daniele Bellasio, cosa ne pensi? Sono assolutamente d'accordo, può essere già lui nominato l'esperto in assoluto. No, devo dividere, metà non era mia la teoria. Metà se l'hai fatta suggerire, si è fatto fare gli appunti. Allora sono suggerimenti super preziosi, perché è proprio il connubio più utile da far ricordare, da ricordare. Economia e fotogenia sono fondamentali per il cibo in televisione, per, come diciamo così, affondato, perché ovviamente gli inserzionisti pubblicitari di marche alimentari sono tantissimi. Giusto. Si trova tantissimo per fare pubblicità ed è un momento per rendere la pubblicità anche diversa, insomma, ecco, molto più narrativa, molto più cinematografica. E poi la parte estetica, cioè le inquadrature nei cooking show che hanno rivoluzionato la fotogenia stessa del cibo, un modo praticamente che non è assolutamente televisivo ma è del tutto cinematografico. Le inquadrature dall'alto, i ralenti sui piatti, anche un pochettino il colore e l'estetica fatta a favore di inquadratura, ma anche il montaggio veloce per sminuzzare gli alimenti, oppure il montaggio più lento, frenetico per far vedere un personaggio in difficoltà, sono tutti provenienti dalla matica del cinema più puro e più classico. Però andando alle origini di tutto, non c'era il montaggio accelerato, non c'era il colore, c'era solo un uomo straordinario del quale io sono innamorata da sempre per sempre, si chiamava Mario Soldati. Io ho scelto una puntata del suo viaggio nella valle del Po alla ricerca dei cibi genuini, l'ho scelto per te Daniele, perché andava in Piemonte a parlare di cucina piemontese. Ecco qui Mario Soldati. La cucina piemontese, come voi sapete, è una derivazione della cucina francese, cioè una cucina a base di vino, di carni, di cacciagioni e di condimenti con salse lavorate e piccanti. Nella cucina sono conservati al tepore della temperatura ambiente le bottiglie di vino vecchio, vino rosso si capisce. Mi ricordo che mio padre mi disse di aver fatto in questo ristorante un pranzo completamente a base di tartufi, cioè tartufi per sull'antipasto, tartufi sul risotto, tartufi sullo stufato, tartufi sulla cacciagione, insalata di tartufi freschi e di funghi freschi, e perfino il dolce era a base di tartufi. Allora, qual è il problema? Che quando si parte già nella storia della televisione con il massimo, esatto, è un po' difficile adesso mantenere. Adesso abbiamo MasterChef Junior. Ah, perché poi c'è, no, Daniele che odia MasterChef Junior. Ma no, ma non è che lo odio, ma sono credibili dei poveri bambini che dicono ho fatto la Julienne, adesso sto facendo una crudité, ma dai. Ma dai, ma sì, ma non è, no, ma non, cioè è finto. Beh, certo che qualsiasi cosa paragoni a Mario Soldati, questa è l'inizio di tutto, professoressa Martina. Sì, assolutamente, cioè Mario Soldati abbiamo iniziato con la troppo alta, ecco, quello di sicuro, come dicevate giustamente voi. Il tono però era completamente, era diverso, lui ha fatto proprio un viaggio antropologico, e se ci rendiamo conto che la televisione era appena nata quando Soldati ha fatto questo viaggio, era anche per unire un po' l'Italia, per far conoscere il Piemonte probabilmente a delle regioni anche del sud, ma anche di altre regioni del nord Italia che non lo conoscevano, non ci conoscevamo ancora bene tra di noi italiani, ecco, forse ancora non lo facciamo nemmeno adesso. L'idea di Soldati era un po' quella di partire, di far conoscere le origini contadine, di far capire anche un po' la modernizzazione dei consumi, con un linguaggio da letterato molto colto, ma comunque poco spocchioso, anzi per nulla spocchioso. Infatti proprio nell'estratto che hai fatto sentire tu, poco prima lui parla con un contadino, gli chiede qualcosa sui tartufi e inizia un po' a parlare in dialetto, proprio in un certo senso per marcare la poca distanza che ci poteva essere. Non era l'esperto in cattedra che abbiamo noi oggi nei programmi, che in tutti i momenti cerca di dire io sono in questa posizione e invece voi ancora non lo siete o non lo sapete. Era un tipo di linguaggio diverso. È un grande raccontatore, anche perché poche cose come la cucina mettono assieme di un popolo la storia e la materia, cioè l'aspetto concettuale e l'aspetto molto sostanziale. E non a caso poi il suo viaggio successivo era quello alla ricerca dell'Italia che leggeva, quindi insomma cibo e cultura e lettura che si saldavano nella storia della televisione e anche nella storia del costume di quegli anni. Appunto, la televisione era veramente la maestra di tutto. Io però vi proporrei un salto carpiato veramente, perché visto che abbiamo detto che Soldati aiutava gli italiani a conoscere, questa cosa è un punto d'onore che si fa anche Bruno Barbieri, sapete? Ah, io lo adoro. Allora, MasterChef Junior no, ma no, Bruno lo so, Barbieri, e sono stupito che lui, sì, gli direi fai MasterChef e lasciamo perdere, no. No, MasterChef Junior no. Allora, Bruno Barbieri, cosa sono servite queste trasmissioni di cucina agli italiani? Se noi guardiamo Twitter, i grandi social network, Facebook, la gente si racconta, la gente fa le prove, la gente cucina a casa, la gente ha, voglio dire, questo programma ha cambiato qualcosa, ha dato la possibilità anche a piccoli produttori a cambiare proprio il modo di pensare non solo la cucina ma anche di produrre, cioè abbiamo, credo che attraverso questo programma abbiamo rilanciato una storia italiana, una storia che è fatta di tanto lavoro, di tanta gente, e poi vedo che anche nel mondo politico sono venute fuori un sacco di cose. E questo fa bene, perché io credo che il vero grande Made in Italy non è solo, con tutto rispetto, la Ferrari o Giorgio Armani o Dolce Gabbana o quello che è, comunque è anche il cibo. Un territorio, l'Italia è un territorio straordinario, e noi ce ne accorgiamo quando siamo all'estero di quanto noi italiani siamo bravi, e quindi attraverso MasterChef abbiamo avuto la possibilità di raccontare la storia anche di tanta altra gente. Beh, quindi si torna a quello che dicevi tu, è un po' l'importanza anche economica del nostro paese. Assolutamente, però il racconto deve essere credibile, non deve essere la televisione a prevalere su una cosa così vera, in fondo, che facciamo tutti nella nostra giornata, o perlomeno vediamo che viene fatta. Per questo che facevo una critica all'eccesso di fiction, per cui devi avere i bambini, devi farlo con i bambini, e quindi si perde un po' il sapore perché stiamo parlando di sapori, questo è un po'... Stiamo parlando di sapori. Tra l'altro io ho moltissime altre curiosità e abbiamo anche uno straordinario ospite, una straordinaria ospite, ma tra un pochino, perché adesso abbiamo tutti i nostri aggiornamenti per il traffico del villaggio, e come dice sempre Daniele. No, teniamo ancora, teniamo ancora Marta Martina per qualche possiamo minuto. Possiamo fare un blocco con due ospiti, stupendo. Imparo delle cose sulla radio, bellissimo. Impara. Non vi dico che numero di puntata è questa di RadioTube, lo dirò la prossima settimana. Ma sta ancora Sono imparando le nostre nozze d'oro. Sta ancora imparando. Ci risentiamo tra pochissimo ancora con RadioTube. La Fed ha sorpreso i mercati con il rimando della exit strategy monetaria. Sembra intenzionato a ricoprire il gap ribassista apertosi a inizio ottava. I dati deludenti anche su questo fronte dovrebbero accelerare il processo di attuazione del quantitative easing della BCE. Quando si parla di economia hai il mal di testa? Prendi Focus Economia, ogni giorno l'appuntamento con l'attualità economica spiegata in modo chiaro, diretto, senza giri di parole e senza sconti per nessuno. Da assumersi tutti i giorni, lontano dai pasti. Focus Economia, di Sebastiano Barisoni, da lunedì a venerdì alle 17, solo su Radio 24. YouTube. Beh, come vola il tempo quando ci si diverte, quando si parla di cibo e non ancora, non abbiamo mangiato niente, abbiamo parlato di cucina per un'ora, mi è venuto cucina un languorino, cucina, però televisione, sta per succedere una cosa straordinaria. Ragazzi, io sono già un po' emozionata. Però... Allora, abbiamo ancora in diretta la professoressa Marta Martina, professoressa, però io devo un po' sgridarti perché il tuo account di Twitter, @EdnaMartina, non è che lo usi tantissimo, eh? No, hai ragione, me le merito tutte perché ritwitto e basta. Vabbè, però... per fare da amplificatore. Però anche quello si può fare. Anche quello si può fare. Allora, autrice dello spettacolo del cibo, perché tu hai parlato dei cooking show nella televisione italiana, hai fatto proprio la storia della televisione italiana. Chiunque abbia più o meno la nostra età, non diciamo quale, ma quell'età lì, pensa che la mamma della cucina italiana in televisione sia una e solo una. Quindi io farei un saltino indietro nel tempo e mostrerei questo video alla radio. Ciao cari amici e grazie a Carla Urban anche questa sera per avermi passato la linea e, come vi dico spessissimo, la possibilità di entrare in casa vostra e di chiacchierare un pochino con voi presentandovi qualcosa di diverso tutte le sere. Questa sera ho trovato una ricetta simpaticissima, questa bavarese di carote, che è un piatto salato, gustosissimo, sarà sicuramente uno di quei piatti che vi piaceranno. Beh, l'avete riconosciuta tutti, mi sento un po' Carla Urban che do la linea. Ma Monte Carlo era lei. Lei era uno sapeva che c'era il telegiornale anche su quella rete, certo, per lei. Perché c'era Telemenù e noi l'abbiamo in linea. Buonasera Vilma De Angelis. Buonasera. Ma che emozione sentire la Vilmetta di tanti anni fa che presentava. Cos'era, una mousse di carote? Sì, una bavarese di carote. Su YouTube ci sono un sacco di video, ci sono tutte le ricette. E quindi possiamo ancora farle le ricette. Stupendo questa cosa. Quello sì, non sono passate, le ricette non passano di moda, no? Anzi, vengono riciclate, riproposte, rivedute, corrette. Però devo dire che la Vilmetta dalla voce è uguale. Signora De Angelis, lei è identica. Ma ha aperto un mondo. La voce non è invecchiata. Ma lei cosa ne pensa di tutta questa televisione della cucina adesso? Ha aperto lei un mondo enorme. Infatti sì, ho avuto questa grossa fortuna, ma mai avrei potuto immaginare che la cosa, il momento che ho smesso io, avesse preso piede veramente in maniera eclatante. Oggi non si parla d'altro, ingrassiamo tutti soltanto accendendo la TV. Tra l'altro ne parlavamo prima con Daniele Bellasio e dicevamo, Benedetta Parodi adesso sembra che abbia inventato la cucina quotidiana per le casalinghe. Vabbè, ma Vilma De Angelis lo faceva già allora. Sì, un po' è perché c'è il legame col telegiornale. telegiornale che secondo me è fondamentale. Infatti facevo da traino al telegiornale, era il telemenù, il telemenù. Sì, come ho detto prima e mi ripeto, ho avuto veramente una grossa fortuna perché nessuno aveva mai parlato, se non proprio in maniera velocissima. C'era, mi ricordo, Vincenzo Bonassisi che faceva l'almanacco e proponeva una cosa ma di due minuti, no? E a me venne messo su un piatto d'argento, ma non solo in senso lato, questa opportunità. Nessuno in televisione aveva parlato di ricette così come ho potuto farlo io, spiegandole in dettaglio. Era una cosa molto carina e soprattutto molto semplice e dedicato appunto alle persone che non volevano fare dei piatti molto elaborati, non volevano esibirsi in cucina, ma volevano avere delle idee per variare il menù quotidiano, cosa difficilissima e noiosissima col passare degli anni. E quelli di oggi li guarda? No. Ah, risposta no, ma chiara. Sapete perché? Ve lo posso confessare, perché tutto sommato ho dentro di me un tarlo di invidia e dico guarda, pensa un po' te, io sono stata la prima, l'ho fatto per 18 anni, adesso sono sono lì tutti loro, sono tutti master chef, sono tutti superstellati, sono i grandi divi del momento, le grandi star del momento sono i cuochi. Dico certo, ho perso una grossa opportunità, sono arrivata troppo presto, o forse no, va bene così, dai. Ebbene, ho 18 anni comunque. 18 anni, 18 anni. Ma sapete quanti ragazzi io incontro adesso, anche giovanotti, che mi dicono, ma sa Vilma che quando la mamma mi accendeva la televisione, perché io non mangiavo, non volevo mangiare, ma poi vedendo lei che maneggiava coi padellini, faceva i soffritti così, poi mi veniva fame, io ho imparato a mangiare e poi magari a cucinare guardandola. Ma adesso sono giovanottoni o ragazzone bellissime, no? No, poi è una grande lezione anche su come una star, una diva, si sa reinventare in un altro. Sì, perché lei era una grandissima cantante. Professoressa Martina, il ruolo di Vilma De Angelis, a parte il fatto che ci emoziona proprio solo sentirla parlare, il ruolo di Vilma De Angelis in questo spettacolo del cibo, la storia dei cooking show in Italia, è fondamentale. Che dice la professoressa? Prima di tutto sono veramente emozionata perché lei ha una nel nostro libro che è quasi da ponte tra due mondi diversi. Noi l'abbiamo un po' considerata la più americana dei programmi televisivi italiani, perché aveva questo giusto tono e anche in certo senso il posizionamento di alcuni prodotti commerciali, che è fondamentale nella televisione, era ben, come dire, oleato nei programmi di Vilma De Angelis. Ma la parte che ci piaceva anche di più, che è piaciuta a me e al mio coautore, era questa parte, come giustamente poi si diceva, più pragmatica della cucina, cioè i consigli, l'idea del mercato, che cosa ho trovato e poi che cosa. Cioè, era proprio la ricaduta immediata della giornata. Per me è stato un grande, bellissimo impegno e un meraviglioso momento, perché venivo dalla musica leggera, ero anche abbastanza in crisi, e quando mi fu proposta questa cosa, così proprio perché fu Paolo Limiti che ebbe quest'idea, dirigeva i programmi di Tele Monte Carlo, noi siamo molto amici da tanti anni, e mi disse, sai, purtroppo in Italia non c'è nessuno, se vai in Inghilterra o in America soprattutto, ci sono dei personaggi che sono dei personaggi già conosciuti magari per altri motivi, no? Perché sono stati attori o cantanti o musicisti, e che che ogni sera propongono una ricetta. In Italia non lo fa nessuno, puoi provarci, vuoi provarci tu? E ci abbiamo provato, come dico, siamo riusciti a durare 18 anni. Ci siamo inventati le telepromozioni, che allora non esistevano, cioè questo modo, come diceva la professoressa, mi fa piacere che lo riconosca, questo modo garbato di fare pubblicità, perché in fondo la realtà era questa, ero in un'antenna commerciale, perciò era indispensabile portare a casa la pagnotta, come si suol dire. Ecco, questo modo però velato che dava la sensazione che non pubblicizzassi un prodotto, ma che lo dovessi usare, perché senza quel prodotto la ricetta non sarebbe... Infatti molte volte mi capitava, andando a fare la spesa, essendo magari dietro a qualche signora o a qualche massaio, e sentire dire no, non prendo quel prodotto lì, perché la Vilma ha detto che questo prodotto, che con questo prodotto la ricetta viene meglio. E io scattaiolavo, perché poi mi vergognavo, no, di essere riuscita a inculcare così velatamente, o forse non è anche tanto velatamente, però non davo la sensazione di fare pubblicità pur facendola. È una questione di credibilità, lo si diceva prima, di sincerità. Io starei qua ancora delle ore, ma il tempo Marta, è volato. Grazie, una puntata veramente bella. No, era tempo, no, veramente. Sono grazie. Contenta e sono contentissima di aver avuto Vilma De Angelis, che io, a parte il fatto che l'aspettiamo in radio, perché se lei vuole venirci a trovare, noi le prepariamo una cucina. Adesso il mio numero di telefono lo sapete, io sono qui quando volete fare due chiacchiere, io ho tante cose da raccontarvi, ma tante. Che meraviglia, grazie a Vilma De Angelis per essere stata con noi. Grazie a voi per l'ospitalità. A e grazie presto. Anche alla professoressa Marta e Martina. E adesso tutti in cucina, nella cucina. Grazie professoressa. Grazie mille, grazie a voi. E alla prossima. Daniele, legumi, andiamo a cucinare. Legumi, cose sane, non sprechiamo niente. E diamo l'appuntamento al prossimo sabato con RadioTube. È estate. Prossimo sabato.